Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Lo prendono in giro perché è grasso, poi lo seviziano. Un ragazzino di 15 anni è in fin di vita a Napoli, tre persone arrestate. Rina e Bagarella non assisteranno alla testimonianza di Napolitano nel processo Stato-mafia. Dopo gli scontri di ieri alla Camera, il via libera alla fiducia sulla riforma del lavoro, Renzi apre il fronte del fisco, avanti determinati sulla semplificazione. Ebola, gravi carenze nel protocollo di sicurezza, riferisce un medico che ha avuto contatti con la paziente spagnola. La tuta di sicurezza, racconta, mi andava corta di maniche. Strade e sottopassi allagati, esondazioni di torrenti, Genova sotto il diluvio, chiusa la A7 tra Bolzaneto e Busalla. 3-0 agli Stati Uniti e le ragazze dell'Ital Volley sognano in grande, mentre gli azzurri del calcio si preparano al match con l'Azerbaigian. Una buona giornata da Simone Spezia e benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, Effetto Giorno, @radio24.it, come sempre per scriverci. Stiamo tra l'altro aspettando a istanti, a secondi, l'annuncio del premio Nobel per la letteratura, appena avremo la notizia naturalmente ve la daremo. Noi apriamo però parlando di cronaca e di quello che è avvenuto a Napoli, che avete sentito nei titoli, un ragazzino seviziato e ora in fin di vita. Carmelo Prestisimone, buongiorno. Buon pomeriggio Simone, è successo proprio nella zona, nella municipalità dove Davide Bifolco, un altro adolescente, è stato ferito a morte da un carabiniere lo scorso 5 settembre. Che cosa è successo? Una brutta, bruttissima storia, come dicevi tu da studio, che purtroppo al momento, ad ora, vede un ragazzo di 14 anni in fin di vita all'ospedale San Paolo a Fuorigrotta. Ieri sera dopo le 19 in un autolavaggio a Pianura, siamo alla periferia ovest di Napoli, tre giovani di 24 anni hanno preso di mira un 14enne, questo ragazzo di 14 anni, iniziando a stuzzicarlo per il suo aspetto fisico solo perché era piuttosto robusto. Da lì tutto è poi degenerato perché il branco si è accanito contro questo ragazzo, uno degli aggressori è accusato di tentato omicidio, due i denunciati lo hanno immobilizzato, anche se i carabinieri sostengono che gli altri due ragazzi non hanno partecipato all'aggressione, lo hanno solo stuzzicato, poi lo hanno denudato e nella colluttazione hanno preso un tubo d'aria compressa provocandogli delle ferite gravissime all'intestino. Pare che abbiano anche utilizzato un compressore, quello delle automobili. Il ragazzo ha perso tantissimo sangue, è stato ricoverato e poi sottoposto a un delicato intervento chirurgico, ora è in condizioni gravissime all'ospedale. Grazie Carmelo Prestisimone per questi aggiornamenti, di questo torneremo a parlare più avanti, ne parleremo col presidente del nono municipio di Napoli sotto il quale ricade il quartiere di Pianura e poi ci collegheremo con qualcuno di Terre des Hommes che oggi ha presentato proprio un rapporto sulle violenze contro i minori. Intanto vi dico che è arrivato il premio Nobel per la letteratura e va a Patrick Modiano, che è uno scrittore francese di origine, parzialmente, almeno la sua famiglia parzialmente, di origine italiana. Annuncio arrivato adesso, naturalmente vi daremo aggiornamenti e dettagli ulteriori nel corso di Effetto Giorno, quindi restate collegati. Veniamo alle vicende del processo Stato-mafia, perché è arrivata questa mattina la decisione sui boss che avrebbero voluto assistere alla testimonianza del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Così non sarà. Raffaella Calandra, buongiorno. No, così non sarà. La Corte blocca l'ingresso al Quirinale dei capomafia. Totò Riina e Leoluca Bagarella non potranno assistere, sia pur in videoconferenza, alla deposizione di Giorgio Napolitano nel processo sulla trattativa Stato-mafia, come non potrà farlo l'ex ministro Nicola Mancino, anche lui imputato, che anche lui aveva presentato istanza di partecipazione. E anche lui imputato in questo dibattimento in cui uomini delle istituzioni siedono accanto a pezzi di Cosa Nostra. I giudici di Palermo invocano la tutela di beni di rilevanza costituzionale per motivare l'esclusione dei boss dall'udienza del 28 ottobre a domicilio, come previsto dalla legge per il capo dello Stato, e negano il videocollegamento dal carcere col Quirinale, nonostante il parere positivo già dato invece dalla Procura di Palermo, preoccupata che l'esclusione degli imputati come Riina e la Bagarella, oltre a Mancino, possa rappresentare istanza di nullità per l'intero dibattimento. momento ed è proprio quella che ora minaccia la difesa di Mancino, ma per la Corte questa è una prospettiva che non esiste, per le che l'esclusione, spiegano, non lede il diritto di difesa e piuttosto va tutelata la prerogativa del Presidente della Repubblica, che sarà ascoltato come teste. Napolitano verrà ascoltato a proposito della legge, della lettera che il suo consigliere giuridico Loris D'Ambrosio gli scrisse nei giorni infuocati delle polemiche per la pubblicazione delle sue intercettazioni con Mancino, lettera composta poco prima di morire per un infarto. Il capo dello Stato ha già fatto sapere alla Corte di non essere a conoscenza di ulteriori elementi, ma quanto scritto da lui in una comunicazione non è bastato ad evitargli la deposizione, che però avverrà solo davanti a PM, avvocati e ovviamente davanti alla Corte, che si trasferirà al Colle. Nessun altro potrà essere presente in quella stanza del cominciale, del Quirinale, a cominciare dagli uomini che dichiararono guerra allo Stato nell'estate del 92 e 93. Simona. Grazie alla nostra Raffaella Calandra. Intanto, il giorno dopo l'approvazione della riforma del lavoro, si riunisce la segreteria del Partito Democratico, meglio, Renzi questa mattina è andato alla segreteria del Partito Democratico ed è tornato a parlare anche di fisco, oltre che di Jobs Act. Vincenzo Miglietta. Sì, buongiorno, torna a parlare allora Renzi dopo aver definito già ieri a Milano sceneggiate quanto accaduto a Palazzo Madama, la bagarra di parte delle opposizioni, le urla durante gli interventi dei ministri Poletti e Boschi, i fogli lanciati quindi all'indirizzo del Presidente del Senato Grasso. Il Premier ribadisce allora questa mattina il concetto ringraziando tutti quei senatori che sono rimasti sino a notte fonda a votare la fiducia, ma ascoltiamo Renzi. Gli italiani sono stanchi delle sceneggiate di alcuni, i senatori ieri hanno fatto un grandissimo passo in avanti. Detto questo, fatemi ringraziare tutti i gruppi, perché finire all'1 e mezzo è ancora una volta, un po' come era già accaduto sulla riforma costituzionale, dimostra che ci sono dei senatori che vogliono veramente bene all'Italia. Poi c'è una parte di senatori che continuano con le sceneggiate, alla fine stanno stancando anche i loro elettori, perché continuare a fare le sceneggiate di ieri è un problema innanzitutto per loro. Il sostegno al governo cresce, dice ancora il Premier, riferendosi ai voti ottenuti al Senato, quindi il caso Tocci, civatiano del PD che ha annunciato le sue dimissioni, farò di tutto perché resti, spiega Renzi. Il Presidente del Consiglio guarda quindi alle prossime riforme, adesso decisi e determinati sulla semplificazione del fisco. Passo dopo passo Italia riparte. Infine il caso Ast di Terni. Sono molto preoccupato, il commento del Presidente del Consiglio. È tutto, linea allo studio. Sul caso dell'asta di Terni torneremo tra un attimo, ma come avete sentito il Presidente del Consiglio ha parlato anche del Movimento 5 Stelle, Movimento 5 Stelle che si prepara all'appuntamento al Circo Massimo. Sentiamo. Al Circo Massimo la macchina organizzativa lavora gli ultimi dettagli in vista di Italia 5 Stelle. Sul maxi palco da 320 metri quadrati sarà Beppe Grillo ad aprire e chiudere la tre giorni dell'orgoglio pentastellato che andrà in scena da domani sera a domenica. Sullo stesso palco, oltre ai rappresentanti del movimento, si alterneranno anche 21 gruppi musicali. In 175 gazebo i grillini eletti in Parlamento e nelle istituzioni locali incontreranno invece gli elettori, un'occasione di confronto anche fra le diverse anime del movimento. Sullo sfondo le tensioni interne sulla leadership, polemiche costruite dalla stampa, sostiene Di Maio. In questo momento non c'è nessuna intenzione di prendere le leadership del movimento. Quello che si sta montando intorno anche a Federico Pizzarotti è semplicemente disinformazione. In questo weekend al Circo Massimo a Roma noi vogliamo spiegare ai cittadini italiani cosa abbiamo fatto in questi anni in Parlamento e nelle istituzioni. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E anche questo è un tema del quale torneremo a parlare più avanti nel corso di Effetto Giorno. Come si diceva, Renzi ha parlato anche della vicenda dell'Ast di Terni, la trattativa è fallita. L'Asta ha annunciato ufficialmente ai sindacati di categoria l'avvio della procedura di mobilità per 550 lavoratori dell'acciaieria, lo riferiscono fonti sindacali, dopo la rottura della trattativa la notte scorsa sul piano industriale, una notizia che già circolava e sulla quale lo stesso Premier Renzi si era speso affinché non avvenisse. Non potevamo accettare la proposta che ci è stata fatta, c'era anche una clausola che prevede già da ora il licenziamento dell'eventuale residuo esubero dopo i 24 mesi di cassa integrazione, ci spiega Stefano Gazzuglia, coordinatore RSU FIOM di Terni, pochi istanti prima di entrare in fabbrica e spiegare ai suoi colleghi perché ieri sera alle 2 di notte a Roma il tavolo col governo, aziende e istituzioni umbre si è concluso con un nulla di fatto. Facciamo l'assemblea, lo raccontiamo il percorso fino ad oggi, il motivo della rottura del tavolo e quello che intenzione abbiamo di fare in questi giorni come iniziative di visibilità per poter riaprire l'eventuale eventuale percorso. Il sito ha tutte le condizioni per continuare a produrre, il governo non mollerà, continuerà la trattativa per portare a casa il risultato, ha detto la vice segretaria del PD Deborah Serracchiani. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Per i consumi il peggio è passato, lo rivela una ricerca del Centro Studi di Intesa San Paolo presentata oggi all'ottavo Consumer and Retail Summit, il tradizionale convegno sul mondo dell'industria di marca, della distribuzione dei consumi promosso dal Sole 24 Ore. Sentiamo Gregorio De Felice, capo economista di Intesa San Paolo, al microfono di Maria Luisa Pezzali. Quello che manca in questa fase del ciclo economico italiano sono soprattutto gli investimenti. Per i consumi, anche se non c'è ancora una ripresa, siamo su una crescita zero, considerando che abbiamo avuto dati fortemente negativi nel 2012 e nel 2013, possiamo forse dire che il peggio è passato. Ci sono alcuni indicatori positivi, in particolare la fiducia delle famiglie italiane è in miglioramento, la disoccupazione non sta scendendo ma non sta neanche salendo, e penso che l'effetto degli 80 euro possa manifestarsi con più forza nel corso del prossimo anno. Quindi qualche schiarita c'è, non possiamo però ancora dire che è tempo bello, stabile. Una notizia appena arrivata e riguarda il processo che riguarda Finmeccanica a Busto Arsizio. Sono stati condannati a 2 anni per false fatturazioni l'ex presidente amministratore delegato Giuseppe Orsi e l'ex AD di Augusta Westland Bruno Spagnolini. Accusa appunto di false fatturazioni, mentre sono stati assolti dall'accusa di corruzione internazionale in relazione alle presunte tangenti per l'aggiudicazione di una commessa per 12 elicotteri dal governo indiano, che tanti problemi, come sapete, ha creato proprio a Finmeccanica, questa accusa appunto. Passiamo ad Ebola, il cosiddetto paziente zero di Ebola è morto, e poi ci sono le accuse di un medico che si è occupato a Madrid del caso dell'infermiera contagiata. Continua ad aggiornarsi il bollettino dei pazienti sotto osservazione nel mondo. Dopo l'agente di polizia ricoverato a Dallas per essere entrato senza tuta protettiva nell'appartamento del liberiano deceduto ieri, ora anche il medico spagnolo che ha assistito per 16 ore Teresa Romero si trova in isolamento. Il dottor Juan Ramirez, che non manifesta i sintomi del virus, ha denunciato gravi carenze nel protocollo di sicurezza e mancanza di mezzi per fronteggiare l'emergenza. Sono 6 al momento le persone ricoverate all'ospedale Carlos III di Madrid. Intanto le autorità portoghesi hanno negato a Lisbona l'atterraggio di un aereo sul quale si trovava una dottoressa norvegese colpita da Ebola in Sierra Leone. In Germania sono 2 i pazienti monitorati, mentre in Australia ad essere sotto osservazione è un'infermiera che ha lavorato per 1 mese in Sierra Leone. Cresce l'allarme anche in Italia, dove la Commissione della Difesa ha chiesto una speciale audizione al Ministro della Salute Beatrice Lorenzin sulle iniziative da adottare per contrastare la diffusione del virus, che ha causato 3.800 vittime in Africa. Marcella Vezzoli, Radio 24, Sole 24. E veniamo agli aggiornamenti da Iraq e Siria. Innanzitutto dalla Siria, dove padre Hannaj Alluf, il parroco francescano sequestrato con 20 di fedeli nei giorni scorsi a Knaie, è stato rilasciato questa mattina ed è stato riportato nel villaggio. A quanto fanno sapere i francescani, Alluf non può lasciare il villaggio ma è libero di muoversi al suo interno. Nel frattempo proseguono le operazioni militari, a partire naturalmente dai raid della coalizione. Ci colleghiamo con Alberto Negri, inviato del Sole 24 Ore. Alberto, buongiorno e bentornato. Buongiorno a voi. Allora, la situazione sembra di stallo, soprattutto per quanto riguarda Kobane, città al confine turco-siriano, della quale stiamo continuando a parlare in questi giorni, che ormai sembra in gran parte sotto il controllo di ISIS, ma oggetto di raid, dove però evidentemente la Turchia non ha ancora né la forza né il coraggio di intervenire. Ma dunque, la situazione l'hai descritta perfettamente, ma dove porterà? Ormai sia i turchi che gli americani hanno detto e concordano su un unico fatto, cioè che raid aerei non basteranno a salvare questa città. Che cosa si vuol fare allora con questa gente che sta combattendo contro il califfato? Beh, probabilmente si farà in modo di lasciare che i curdi arrivino quasi allo stremo delle forze e forse apriranno un corridoio umanitario per farli fuggire dalla città. Beh, insomma, questo non è certamente una grande risoluzione risultato per questa coalizione internazionale che voleva utilizzare i curdi per fare un po' il lavoro sporco sul terreno, cioè combattere sul campo contro i jihadisti. Grazie ad Alberto Negri, inviato del Sole 24 Ore, come sempre per la puntualità degli aggiornamenti e delle analisi. Noi adesso parliamo di sport. Saluto il nostro Dario Ricci. Dario, buongiorno. Buongiorno, buongiorno Simone. Allora, sei in trasferta per seguire la nazionale di calcio, ma ieri sera in realtà eri al Forum a Milano per seguire la nazionale di volley. Dunque, andiamo in ordine cronologico e partiamo da queste splendide ragazze dell'Ital Volley che infliggono un 3-0 agli Stati Uniti. Beh sì, direi che poi c'è proprio un bel legame fra queste due nazionali, quella che è qui, quella del calcio a Palermo alla vigilia della sfida con l'Azerbaigian, e quella azzurra dell'Ital Volley che ieri ha dato spettacolo a Milano, un 3-0 netto, tant'è che anche Antonio Conte, CT degli Azzurri, ha voluto chiamare CT delle ragazze Marco Bonitta per complimentarsi anche via Twitter, insomma un ponte ideale. E queste ragazze, Simone, stanno sorprendendo, perché adesso la semifinale è davvero a un passo, basterà conquistare un set contro la Russia che oggi affronta proprio le statunitensi, ma è chiaro che l'appetito viene mangiando. Battendo le russe vinceremo il gironcino a tre che qualifica le semifinali e quindi eviteremo l'incrocio più pericoloso in semifinale contro le favoritissime brasiliane, che però anche loro cominciano ad aver paura di queste azzurre. Speriamo che ce l'abbiano. Senti Dario, e poi appunto la nazionale di calcio che gioca domani sera, no? Sì, domani sera la sfida con l'Azerbaigian. Oggi il protagonista in conferenza stampa, una vecchia conoscenza del nostro calcio, quel Bertie Fox che nel 1970 in quell'incredibile sfida dell'Azteca, Città del Messico, era in campo nella partita del secolo, Italia-Germania 4-3, ancora mi brucia, ha detto oggi Bertie Fox, che insomma gli anni da quel pomeriggio ne sono passati parecchi e vorrei poterla rigiocare, ha detto. Insomma, domani si preannuncia un avversario ostico, ma insomma non deve essere l'Azerbaigian a far preoccupare l'Italia di Conte. No, speriamo davvero di no. Allora, grazie al nostro Dario Ricci, ci fermiamo, c'è il traffico. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. I Nobel per la letteratura va allo scrittore francese Patrick Modiano per l'arte della memoria con la quale ha evocato i destini umani più inafferrabili, scrivono gli accademici di Svezia. La notizia di poco fa: sono stati condannati a 2 anni per false fatturazioni l'ex presidente e amministratore delegato di Finmeccanica Orci e l'ex amministratore delegato di Augusta Westland Bruno Spagnolini. Sono stati però assolti dall'accusa di corruzione internazionale in merito alla vicenda degli elicotteri in India. Lo hanno preso in giro perché è grasso e poi lo hanno seviziato. Un ragazzino di 15 anni è in fin di vita a Napoli, sono 3 le persone arrestate. Rina e Bagarella non assisteranno alla testimonianza di Napolitano. Secondo il tribunale l'esclusione non lede il diritto di difesa. Ebola, gravi carenze nel protocollo di sicurezza, riferisce un medico che ha avuto contatti con la paziente spagnola. La tuta, racconta, mi andava corta di maniche. E a Luca, credo da Verona, che ci scrive via SMS, vi siete dimenticati il Jobs Act, la riforma del lavoro? No, assolutamente, ne parliamo proprio adesso. Alberto Orioli, vice direttore del Sole 24 Ore, ciao, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, vorrei innanzitutto da te un giudizio generale, posto, Alberto, naturalmente che siamo in un ambito abbastanza generico perché la delega stessa, soprattutto per quanto compete la parte dell'articolo 18, è piuttosto generica. Sì, indubbiamente, è una cornice molto a maglie larghe, per cui bisognerà stare molto attenti a come verranno fatti i decreti delegati, perché lì può andare tutto il contrario di tutto. Si tratta però di una cosa importante, perché come l'ha presentata il ministro Poletti ieri al Senato, è un modo di vedere le cose completamente diverso, direi un modo per archiviare l'idea del Novecento che c'era sul lavoro, dello scontro tra capitale e lavoro, dell'idea di conflitto che poi sfocia in contrattazione. È una svolta verso un'idea più moderna dell'impresa, che è un luogo dove si fa innovazione, dove si creano condivisioni di strategie, dove si esercitano responsabilità anche condivise spesso e necessariamente indirizzate verso un'unica strada. Non è tutto idilliaco naturalmente, però è una svolta molto importante che consente di rappresentare le regole che presidiano il mercato del lavoro in modo completamente diverso, e al suo interno poi naturalmente c'è la spinosissima questione dell'articolo 18, di cui ieri un po' ipocritamente non si è mai fatto cenno, ma che comunque sta nelle pieghe della delega naturalmente. Quindi mi sembra di capire, Alberto, che può essere considerato una sorta di punto di mediazione adeguato anche rispetto a quella che è la cultura che fino adesso ha espresso il centrosinistra, e quindi anche dal punto di vista politico? Beh, indubbiamente è stato frutto anche di una forte macerazione interna al PD, l'ultima direzione è stata drammatica da questo punto di vista nello svolgersi del dibattito, e quindi c'è una svolta importante anche nel principale partito del centrosinistra su questi temi. È chiaro che crea anche delle lacerazioni, dei vulnus che solo il tempo riuscirà probabilmente a sanare. La mediazione per ora è stata fatta nelle parole e nell'evitare certe locuzioni all'interno della delega, che, torno a dire, è un provvedimento a maglie molto molto larghe, che dovrà essere tutto discusso nella sua applicazione di merito, e lì si scaricheranno le principali tensioni di chi vede il tema in modo anche diametralmente opposto, come è all'interno della stessa maggioranza un po' composita che sta sotto il governo Renzi. Grazie Alberto Orioli, vice direttore del Sole 24 Ore. Io vi segnalo che tra l'altro oggi naturalmente trovate molti dettagli tanto sul quotidiano in edicola quanto sul sito del Sole 24 Ore, appunto sul Jobs Act, sulla riforma del lavoro. Insieme ci sono anche delle valutazioni sull'efficacia dei singoli capitoli della riforma del lavoro. Intanto questa mattina la Camera ha dato il primo via libera, ne abbiamo discusso nei giorni scorsi, lo ricorderete, al decreto Stadi. Dall'inasprimento del DASPO al giro di vite sulla frode sportiva, dal blocco delle trasferte al taser per i poliziotti, misure per contrastare la violenza negli stadi, quelle contenute nel decreto approvato dall'Aula della Camera con 289 sì, 144 no, 2 astenuti. Tra le principali novità, il contributo a carico della società sportiva alle spese per la messa in sicurezza degli stadi, che comprende agenti di polizia e vigili del fuoco. Una tassa che può oscillare tra l'1 e il 3% sui biglietti venduti per ogni singola partita. E poi DASPO di gruppo: ai tifosi violenti lo stadio sarà interdetto più a lungo. Il divieto di accesso varrà infatti per almeno 3 anni nei confronti dei responsabili di violenze di gruppo e da 5 a 8 nel caso di recidivi. Divieto di trasferta poi per 1 o 2 campionati nel caso di gravi episodi di violenza. Aumentano sensibilmente le pene per la frode in competizioni sportive. Chi compra o vende una partita potrà rischiare fino a 9 anni di carcere. Al via infine la sperimentazione della pistola elettrica da parte della polizia. Così restituiamo il calcio agli italiani, ha commentato il ministro dell'Interno Alfano. Fuori violenti dalle curve, dentro famiglie e bambini. Il testo però deve passare ancora l'esame del Senato. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. Questo è il quadro dal decreto Stadi, e visto che siamo sulla politica, vi abbiamo detto che saremmo tornati sulla manifestazione del Circo Massimo del Movimento 5 Stelle. Siamo in attesa di collegarci col senatore Vito Crimi, che ci aveva detto dalle 13.15 sono disponibile. Se fosse in ascolto, stiamo provando a chiamarla. Passiamo però al Nobel per la letteratura, Alessandra Tedesco, eccoci. Eh sì, l'Accademia di Svezia quest'anno ha voluto stupire, assegnando il Nobel per la letteratura a uno dei nomi che oggettivamente non era circolato come favorito negli ultimi giorni. A vincere questo Nobel è il francese Patrick Modiano. Lo leggiamo all'italiana, Modiano, perché il padre era un ebreo appunto di origine italiana. I francesi sicuramente lo chiameranno Patrick Modiano. Chi è allora Patrick Modiano? Beh, è uno degli scrittori sicuramente francesi più importanti. Ha vinto per esempio il premio Goncourt, che in Francia è il premio letterario più prestigioso. Viene pubblicato da una casa editrice decisamente importante in Francia, la Gallimard. Quindi insomma un editore importante che gli ha dato fiducia. In Italia invece Patrick Modiano non è particolarmente conosciuto. È stato pubblicato da diversi editori, come per esempio Guanda e Inaudi, e vi cito per esempio alcuni titoli: Sconosciute, uscito nel 2000, e L'Orizzonte, uscito nel 2012. In genere i romanzi di Modiano sono ambientati nel periodo nazista, durante appunto la Seconda Guerra Mondiale, e questo anche perché la sua vita privata è stata fortemente influenzata da quanto accaduto all'epoca. Dicevamo, appunto, figlio di un ebreo di origini italiane, il padre era riuscito a salvarsi dai campi di concentramento grazie ad alcune amicizie importanti, quindi era una figura piuttosto ambigua, e su questa ambiguità Modiano gioca molto nei suoi romanzi che sono sempre ambientati in Francia, in genere a Parigi, e come dicevamo appunto durante l'epoca del nazismo. Insomma, come dicevamo, anche quest'anno l'Accademia di Svezia ci ha colti un po' così alla sprovvista. I nomi che erano circolati negli ultimi giorni, insomma i favoriti dai bookmaker, erano quello dell'eterno candidato al Nobel, il giapponese Murakami Haruki, e quello quest'anno di uno scrittore saggista keniota, Ngugi Wa Thiong'o, che però appunto non ha vinto il Nobel per la letteratura 2014, che invece è andato al francese Patrick Modiano. Grazie alla nostra Alessandra Tedesco. Ci fermiamo, ci ritroviamo tra un attimo con la borsa. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Lo seviziano in tre perché è obeso, un ragazzo di 14 anni è in fin di vita a Napoli. Il Nobel per la letteratura va allo scrittore francese Patrick Modiano. Condannati per false fatturazioni, assolti all'accusa di corruzione internazionale, l'ex presidente amministratore delegato di Finmeccanica Orsi e l'ex amministratore delegato di Gustav Westland Bruno Spagnolini. Rina e Bagarella non assisteranno alla testimonianza di Napolitano. Secondo il tribunale l'esclusione non lede il diritto di difesa. Strade sottopassi allagati, esondazioni di torrenti, Genova sotto il diluvio, chiusa la A7 tra Bolzaneto e Busalla. La borsa. Borse in diretta. E vediamo di fare un punto, come sempre, con i colleghi di Radio Cor, Il Sole 24 Ore. Saluto Isabella Tasso. Ciao Isabella, buongiorno. Buongiorno. Come vanno le cose oggi? Beh, i mercati erano partiti bene grazie alla diffusione della minuta dell'ultima riunione della Riserva Federale Americana, che sembrano rendere meno scontato un rialzo a breve dei tassi di interesse statunitensi. I listini hanno però man mano perso slancio nel corso della mattinata, complice anche dati economici sfavorevoli provenienti dalla Germania e uno scarso ottimismo sull'economia da parte del bollettino mensile della BCE. Così a metà seduta si trovano in territorio marginalmente negativo: Milano fa meno 0,07%, Parigi meno 0,14%, resta in positivo il DAX a Francoforte più 0,5% e Londra che fa più 0,1%. Singoli titoli da segnalare, Isabella? Ma a Milano sono particolarmente penalizzate le banche: UBI cede l'1,9%, Intesa San Paolo l'1,1%, Fiat arretra dell'1,8% dopo l'annuncio relativo al riacquisto delle azioni su cui è stato esercitato il recesso dai soci, che comporterà per il Lingotto un esborso da oltre 400 milioni. Perde l'1,8% anche Mediaset, questo dopo che Nielsen ha confermato la debolezza del mercato pubblicitario di settembre dopo il meno 11,3% riportato in agosto, questo dall'intero settore. Ancora debole anche World Duty Free, sesta seduta consecutiva di rosso, oggi il titolo fa meno 1,4%. Grazie Isabella, buona giornata. Buona giornata. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Prima di tornare alla cronaca e a quello che è successo a Napoli, ci sono i dati forniti dalla UIL pochi istanti fa. Nel 2013 le persone che hanno beneficiato di un ammortizzatore sociale, che sia cassa integrazione, mobilità, disoccupazione, ASPI o mini ASPI, sono state quasi 4 milioni e mezzo, un aumento del 6,5% sul 2012 e del 113,6% sul 2008. La spesa è stata di 23 miliardi, in aumento del 5% sul 2012 e del 138,3% sul 2008. Questi dati del rapporto UIL. Torniamo alla vicenda di Napoli, dove, come vi abbiamo raccontato in apertura di Effetto Giorno, come vi abbiamo raccontato anche anche nei nostri titoli, c'è un ragazzino di 14 anni in fin di vita, obeso, è stato preso in giro da tre persone che poi lo hanno sostanzialmente seviziato e adesso è ricoverato in ospedale. Io saluto Maurizio Lezzi, che è presidente della nona municipalità di Napoli. Buongiorno, è la municipalità nella quale ricade il quartiere di Pianura dove questi fatti sono avvenuti. Saluto anche Paolo Ferrara, che è responsabile fundraising e comunicazione della Fondazione Terre des Hommes, perché oggi presentate in sede parlamentare al Senato, se non sbaglio Ferrara, un rapporto proprio sulle violenze commesse nei confronti di minori in Italia. Buongiorno Ferrara. Buongiorno a tutti, siamo alla presidenza del Consiglio dei Ministri. Proprio alla presidenza, con la presidenza, ecco, del Presidente Grasso. Sì, ecco, è questo che mi ha tratto in inganno. Allora, inizierei da Maurizio Lezzi, appunto Presidente della nona municipalità di Napoli. Io vorrei sapere innanzitutto se ha qualche notizia sulle condizioni di questo ragazzino. No, noi abbiamo appreso, voglio dire, questa notizia da circa qualche ora, voglio dire. Ci stiamo attivando per capire come verificare lo stato di salute di questo ragazzo. Certo, un episodio, voglio dire, intollerabile, che vede compromessa la vita di un quindicenne, quindi un atto estremamente grave. E noi comunque adesso vediamo il da farsi per cercare di capire, voglio dire, come mai si è verificato, voglio dire, questo episodio, e quindi agire nelle migliori forme istituzionali per sostenere anche un attimo la famiglia adesso di questo ragazzo. Naturalmente immagino che ci sia intenzione di sostenere la famiglia. Io vorrei avere un'idea, se possibile, Lezzi, anche del quartiere, se riesce ad aiutarci da questo punto di vista. Io rappresento due quartieri della città di Napoli, come quello di Soccavo e quello di Pianura. Parliamo dell'estrema periferia della città, dove però c'è un lavoro, voglio dire, attivo a 360 gradi tra istituzione locale ed anche associazioni del territorio. Per dirne una, l'associazione anti-racket, che nasce proprio nel quartiere di Pianura, per dare un risveglio a quelle che sono le coscienze e quindi portare sul binario della legalità due quartieri che hanno visto, grazie all'impegno delle forze dell'ordine, alla nascita di un commissariato di polizia che tra 15 giorni inaugureremo, proprio per dare una grande risposta sulla sicurezza e sulla legalità del territorio. Questi sono gli obiettivi dell'istituzione, voglio dire, principale locale. Tra l'altro Lezzi è sotto la municipalità che lei presiede, che ricade anche il quartiere, se non erro, dove quel ragazzo è stato ucciso da un carabiniere mentre... Esatto, quindi un'altra vicenda brutta che vede due vittime, purtroppo, sia il carabiniere e sia questo ragazzo di 15 anni e mezzo, di 16 anni circa, che ha perso la vita. Però io dico che, al di là, voglio dire, degli impegni, ne approfitto che c'è anche un esponente, voglio dire, del Senato, al di là degli impegni e degli sforzi che possa fare, voglio dire, un'amministrazione piccola locale, sì, io credo che c'è bisogno di aprire proprio una vertenza su Napoli, perché ritengo, come dire, che con una legge speciale, con un qualche cosa che dia un sussulto, Napoli ha bisogno di un sostegno forte. Soli non possiamo arrivare da nessuna parte, c'è bisogno anche che il governo interagisca. Non c'è un rappresentante del Senato, c'è, come si diceva, Paolo Ferrara, responsabile fundraising e comunicazione della Fondazione Terre des Hommes. Come si diceva, oggi avete presentato dei dati sulle violenze nei confronti di minori in Italia, ce li vuole fornire Ferrara, per favore? Allora, facciamo una cosa, cerchi di recuperare una posizione nella quale, come dire, le tacche del telefonino siano un po' di più, per dirla ormai quasi all'antica, insomma, dove ci sia un po' di campo e il telefono prenda, e vediamo di riuscire appunto a cercare di capire quali sono i dati che riguardano la violenza sui minori. Intanto qualcosa vi posso dare io, perché sono dati che sono stati forniti questa mattina. Sono più di 5.100 i bambini che nell'ultimo anno sono stati vittime di reati. Dunque, Paolo Ferrara, responsabile fundraising e comunicazione della Fondazione Terre des Hommes, eccoci qua. I numeri parlano di 5.100 bambini vittime di reati, ci diceva. Che tipo di reati? I reati che sono in maggiore crescita sono i reati che sono connessi alla violenza familiare e domestica e soprattutto alla violenza sessuale e alla pornografia. C'è un dato che oggi abbiamo elaborato insieme alla Polizia di Stato: in 10 anni la percentuale di casi di sfruttamento della prostituzione e di violenza sessuale a danno dei minori è aumentato del 441%. Complessivamente però i dati ci indicano un aumento del 56% dei casi di violenza. All'interno di questi ci sono casi di violenza intrafamiliare, ci sono casi di prostituzione, tratta dei minori. Sono dati allarmanti, sono probabilmente la punta di un iceberg. Altri dati ci dicono che normalmente a denunciare la violenza sono soltanto 3 persone su 10. Per altri versi sono anche forse l'indicatore di, speriamo almeno, di una maggiore consapevolezza, della maggiore disponibilità a denunciare. Io credo che però i dati ci dicono sicuramente una cosa, e oggi durante la presentazione è emersa più volte. La violenza, non soltanto la violenza fisica, ma la violenza anche psicologica, l'abuso psicologico, le forme anche di violenza, di cyberviolenza attraverso internet, sembrano essere una costante di questi ultimi anni in forte aumento, con una pervasività che ci deve far allarmare e preoccupare. I casi registrate di violenza in termini di discriminazione, perché c'è un ascoltatore via SMS che fa una sorta di parallelo, no? E dice: beh, se il ragazzo fosse stato gay parleremo di un atto omofobico, è grasso, dato che sarebbe obeso non ne parliamo, però effettivamente un atto discriminatorio pure questo, nella sostanza, diciamo così. Quanti... Allora, non abbiamo purtroppo un dato dell'atto discriminatorio, perché in quanto tale non viene rubricato dai nostri tribunali in quanto tale, ma oggi eravamo qui a parlare per esempio di violenza di genere e di discriminazione. Allora, qui è chiaro che quello che sta emergendo, ma abbiamo interrogato i ragazzi su questo, c'è una tendenza alla giustificazione della violenza, a una tendenza alla giustificazione anche degli stereotipi. Gli stereotipi riguardano sicuramente il genere, riguardano sicuramente la sessualità, ma ahimè, come dimostra questo caso, riguardano anche ragazzi che non sono all'altezza di un modello che i media, che la televisione, spesso e volentieri, ma anche la carta stampata, tendono a rimbalzare e a farci sentire come l'unico appropriato. E quindi è necessario l'intervento che noi, come molte altre organizzazioni, stanno cercando di fare, ma che deve essere un compito primario della scuola, di lavorare sull'educazione innanzitutto ai sentimenti e alle emozioni, perché non è pensabile che un gioco possa essere un gioco quello di seviziare un ragazzo e poi con il rischio che questo finisca. Questo mi sembra evidente, Paolo Ferrara, così come bisogna vedere insomma i luoghi nei quali magari capita che a scuola o al lavoro semplicemente non ci si vada perché o non c'è la scuola o non c'è il lavoro o entrambi, che è un po' quello che ci diceva Maurizio Lezzi poco fa, che saluto e ringrazio, presidente della Nona Municipalità di Napoli, così come ringrazio Paolo Ferrara, responsabile fundraising e comunicazione della Fondazione Terre des Hommes. Traffico. È il momento di Mario Platero. America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da Washington. Mario Platero, sono arrivato questa mattina alla capitale americana dove si tengono i lavori del Fondo Monetario Banca Mondiale. Entriamo proprio oggi nel vivo di queste riunioni. Perché entriamo oggi nel vivo? Beh, perché ci sarà questa mattina la conferenza stampa della Lagarde, arrivano i ministri, il nostro ministro dell'economia Carlo Padoan farà un intervento alla George Washington University più tardi, sempre questa mattina. Mario Draghi, io andrò a sentire